In Niger, la porta del deserto nel viaggio verso l'Europa, e poi in Grecia, dove la rotta è solo apparentemente chiusa. E infine in Messico, al confine con gli Stati Uniti, e poi in Australia, per analizzare quel modello di gestione dell'immigrazione, benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. The US-Mexican border has a wall. It covers a third of the US-Mexican border, which is 3,000 kilometers. If you travel by boat without a visa, you will not make Australia home. Ben ritrovati e buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, che è in redazione insieme ad Elisa Pancaldi, e Gianmarco Ferronato, che è in regia. Allora, la puntata di ieri ha scatenato una serie di reazioni e commenti. Vi propongo perciò di continuare questo viaggio per meglio capire il fenomeno migratorio e le sue dinamiche. Vi ricordo quindi che potete commentare e criticare al 349-238-6666. Non leggerò, come sempre faccio, i complimenti, che pure arrivano e quindi vi ringrazio, ma leggerò critiche e commenti. Vi prego anche però di usare toni che siano radiofonici, quindi non sono ammessi sproloqui e vituperi, perché questo non è il programma che li accoglie. 349-238-6666, poi siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, su Twitter, Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. Allora, nella narrazione del fenomeno migratorio, alcune immagini sono ormai divenute piuttosto familiari per noi che accendiamo la televisione, accendiamo la radio, guardiamo i giornali. Sono gli sbarchi che avvengono in Italia, i salvataggi che avvengono nel Mar Mediterraneo, qualche immagine, quella un po' più rara, di quello che accade in Libia, ce l'ha raccontate per esempio ieri Francesca Mannocchi. Quello che non si vede è quello che accade molto prima, migliaia di chilometri prima di aver attraversato il deserto del Sahara. Stella guardo moon, e dindo moon se per, e chi è tempeste notte, mare di vento, e la confonde pan, e arrugginisce canun, nevero deserto, sabirove subi. Allora, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Ieri ne abbiamo carpito soltanto alcuni scampoli del suo racconto. Giacomo Zandonini, giornalista freelance, sta girando un documentario in Niger, ne ha già girato uno. Giacomo, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e grazie insomma di avermi chiamato per continuare a raccontare un po' quello che succede in Niger. Allora, partiamo da un po' di suoni, un po' di voci che tu hai già raccolto in un lavoro che si chiama Wallah je te jure. Wallah in arabo significa ti giuro, appunto. Il sottotitolo prevede anche la versione francese, perché tanti sono i francofoni che attraversano quella zona, e quindi una frase ricorrente, uno slogan ricorrente. Ascoltiamolo insieme. On the left, ifi. Sans te donner manger, sans rien. Tu dis maintenant le foie est là, tu restes ici jusqu'à. On t'a envoyé l'argent pour passer au Libye, tu passes. Ou bien en Algérie, tu passes. Mais là, personne ne peut rester ici parce qu'il n'y a rien. Et c'est pas la fraude. C'est pas question de le faire. On passe par barrière. E quelle che sentite sono alcune testimonianze di alcuni migranti, tentativi fatti di arrivare sulla costa libica per poi arrivare in Europa, molto spesso tentativi che non sono stati felici, appunto, per i migranti. Giacomo Zandonini, che conosce, inizia direi a conoscere piuttosto bene il Niger, fra l'altro è fresco, se così si può dire, vista la temperatura di ritorno dal paese. Agadez una volta era la grande porta del deserto, ci raccontavi ieri proprio da questi microfoni, però poi qualcosa sta cambiando nel paese, nell'importante paese africano. Giacomo. Sì, assolutamente, il cambiamento è grosso e siamo dentro questo cambiamento. Fino, come dicevo ieri, fino all'estate scorsa tutto accadeva da Agadez sotto la luce del sole. Ogni lunedì, all'interno di un convoglio militare in partenza da Agadez verso Dirku, questo avamposto militare in direzione della Libia, si inserivano nel convoglio militare, quindi scortati dai militari del Niger, decine di pick-up carichi di migranti. E la cosa è improvvisamente cambiata dallo scorso settembre, quando il governo nigerino, con anche un supporto significativo dell'Unione Europea, della missione civile dell'Unione Europea soprattutto, attiva da alcuni anni nel paese, ha deciso che finalmente era il momento di implementare una legge che già esisteva per contrastare il traffico e la tratta di persone. E quindi ha iniziato ad arrestare degli autisti soprattutto, poi anche dei facilitatori, chi insomma dava anche ospitalità ai migranti, e rendendo in qualche modo sempre più nascosto il fenomeno migratorio. Oggi ci sono ancora ad Agadez, appunto, fino a 10 giorni fa io mi trovavo lì e ci tornerò a breve, ci sono ancora i migranti, ma sono sempre più nascosti, partono ancora ma per vie e strade sempre più pericolose, meno ufficiali in qualche modo. Allora, intanto al 349-238-6666 sono i primi commenti. C'è chi, per esempio, punta il dito contro l'ONU, le Nazioni Unite, che dice solo statistiche e raccomandazioni. C'è chi mi chiede via WhatsApp se è vero, dati del Viminale, che gli sbarchi sono in calo in Italia. Sì, ma non è, come scrive l'ascoltatrice, a causa della firma del protocollo da parte delle ONG. Sono dati che non hanno nulla a che fare, sono relativi al confronto tra giugno di quest'anno e giugno dell'anno scorso, se non erro meno 51%, ma chiedo Antonio Tale e Elisa Pancaldi se mi fanno una ricerca velocissima per andare a confortare questo dato, che magari la mia memoria vacilla. Siamo con Giacomo Zandonini, giornalista freelance, che ormai da alcuni anni studia il Niger, che dicevo all'inizio è un paese di transito estremamente importante, l'importanza è tale anche per i trafficanti di uomini. Dobbiamo ricordare e sottolineare che ogni volta che trattiamo e parliamo di immigrazione stiamo parlando di milioni e milioni di euro ogni anno. Le statistiche dicono che si tratti del secondo business al mondo dopo la droga, e quindi è importante perché ogni azione o non azione, non solo da parte dell'Unione Europea o degli Stati Europei, ma anche africane, delle polizie africane, ha comunque un impatto su questo business, e non sempre l'impatto è risolutivo, anzi molto spesso i trafficanti, che sono agili, sono veloci, sono flessibili, hanno reazioni, e ovviamente non devono tenere conto della legge, hanno reazioni che sono immediate, mentre molto spesso l'Europa, no, organizza summit su summit e poi invece decide molto, molto poco. Giacomo Zandonini, mi dicevi, iniziavi a raccontarci ieri, che a un certo punto la notte succede questo strano gioco, questo guardie ladri tra polizia e trafficanti, tra polizia e migranti. Insomma, la notte è un po' quello in cui tutto succede nelle città, non solo a Agadez in Niger. Sì, la notte è assolutamente il momento chiave, il momento in cui anche chiaramente è più difficile lavorare per noi giornalisti da un certo punto di vista, perché succede quello che nessuno dovrebbe vedere o che comunque non si dovrebbe sapere, che però in qualche modo in un posto come Agadez tutti sanno, perché sono decine questi ghetti o connection house in cui i migranti sono tenuti. Una volta che arrivano ad Agadez arrivano generalmente in autobus e da lì poi devono proseguire per forza attraverso delle piste nel Sahara, quindi con dei pick up, oggi una volta erano anche i camion. E la notte è il momento in cui si cerca di lasciare la città, chiaramente oggi evitando i posti di controllo alle porte della città e quindi uscendo di frodo da vie laterali. Alle volte ci sono, insomma, sono episodi anche chiaramente di corruzione, di contatto fra le forze di sicurezza, di polizia e gli stessi trafficanti. Però c'è questo gioco nascondino continuo, per cui è molto difficile, prima parlavamo di cifre, ma capire quante persone partono da lì per arrivare in Libia o tentare la traversata. Sì. Oggi è impossibile dirlo, c'è chi ci sta provando, lo faceva l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, fino all'anno scorso si poteva dire che erano dati abbastanza attendibili, perché appunto i migranti passavano attraverso le piste ufficiali, i posti di blocco. Oggi non è più così, e qualcuno dice addirittura che i numeri siano cresciuti rispetto a prima. Come funziona la rete nigerina dei trafficanti che guarda Deserto e Sahara? Sono piccoli trafficanti, piccoli autisti con mezzi che approfittano del business che è così goloso? Di che etnia sono? Raccontaci meglio di questa rete che lucra su questo business. Sì, sicuramente diciamo per noi è appunto una rete che lucra. Poi dal punto di vista, come insomma tu ben sai, degli stessi protagonisti, è semplicemente spesso un lavoro, un impiego effettivamente remunerativo per il paese più povero del mondo, agli ultimi posti della classifica dello sviluppo umano sempre. E chi gestisce, diciamo, chi realizza poi materialmente i passaggi sono in gran parte persone di etnia Tubu, che è questa etnia che vive fra Libia, Chad e Niger, di origine nomade e che conosce molto bene il deserto, anche comunque insomma gestisce anche commerci attraverso il Sahara, e rappresentano, secondo le stime che mi hanno fatto alcune persone, circa sicuramente una maggioranza, forse addirittura l'80% degli autisti sono Tubu, e i restanti sono prevalentemente Tuareg, che abitano anche queste zone. Insomma, in qualche modo il deserto per loro è una terra senza confini, non solo in questi tre paesi che ho menzionato, ma fino all'Egitto, la Tunisia, l'Algeria e il Sudan. Sì. Intanto ti interrompo, Giacomo, perché intanto al 349-238-6666, sia gli sms che i whatsapp, lo ricordo, questo è il modo per commentare la puntata di quest'oggi. C'è Maria da Roma, per esempio, che dice, citando una dichiarazione del missionario comboniano Zanotelli: ci sono 250 milioni di persone pronte a partire per l'Italia, è credibile o no? Se fosse così non ci rimane che migrare pure noi. Così sconsolata Maria da Roma. E poi c'è qualcuno che dice: finalmente possiamo prendere la palla al balzo, così Macron nulla avrà ad obiettare, MSF è un'ONG francese per cui loro possono prendere i migranti e portarli direttamente ad Ajaccio, a Marsiglia, se vogliono salvare dei profughi, vi pare? Così Lorenzo, che in realtà, diciamo, punta il dito su quello che è una battaglia che dovrebbe essere italiana, che si trova a sopportare sulle proprie spalle, complice anche di un accordo che è stato recepito dal nostro governo, sopportare l'intero peso degli sbarchi. Poi c'è chi, come Angelo da Savona, dice: non sono migranti, sono clandestini, devono essere fermati prima con qualunque mezzo. Succederà, perché gli italiani per fortuna stanno cominciando a ragionare con la propria testa. Da alcuni anni ormai si evita la parola clandestini, ma per un paio di motivi. Primo, perché avrebbe connotati denigratori; secondo, non c'è nessuna clandestinità, perché clandestino attiene a un movimento che è nascosto, mentre i barconi si mettono in mare e sono immediatamente visibili. In più, finché noi non battezziamo se abbiano o meno diritto a chiedere, per esempio, diritto d'asilo, eccetera, quindi se non capiamo se hanno titolo o meno a entrare in Italia, sono migranti, non possiamo nemmeno dire che sono irregolari. Questo per essere molto molto precisi. Giacomo Zandonini, l'ultima domanda per te è: cosa succede ai migranti, quando, ma anche ai trafficanti, quando vengono fermati in queste nottate di guardie e ladri ad Agadez? Cosa succede al trafficante e cosa succede al migrante? Il trafficante fermato viene portato in carcere, generalmente, a meno che non abbia delle buone conoscenze, insomma, che gli evitino delle pene che sono anche severe. Arrivano oggi fino a 15 anni. Il timore principale, tutti i trafficanti mi hanno, insomma, con cui ho parlato, loro hanno questo timore, che è una pena di minima di 5 anni, e quindi qualcuno ha anche lasciato oggi, da quando questa legge è stata applicata veramente, ha smesso di fare questo lavoro, insomma. E quello che succede d'altra parte ai migranti è che generalmente vengono bloccati, o insomma in qualche modo il viaggio chiaramente viene interrotto. Alcuni vengono portati, se sono in situazione di difficoltà, perché spesso si rimane giorni anche nel Sahara, appunto perché cercando di evitare i posti di blocco diventa molto più pericoloso viaggiare, e questo è un effetto, insomma, secondario ma molto importante anche di queste politiche: si prendono vie più pericolose e quindi si rischia la vita in modo molto maggiore. E quindi in questi casi le persone che magari sono in stato anche di salute molto precario vengono portate in base militari, vicine, per essere curate al momento, o portate nei centri di transito dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, che ne ha 5 nel paese, ma in particolare 3 nella regione di Agadez, quindi lungo le rotte migratorie, e le persone lì possono chiedere un aiuto per essere rimpatriate, per tornare nel proprio paese, o se desiderano invece continuare il viaggio è estremamente facile ricontattare qualcuno che ti farà, cercherà di farti proseguire nonostante tutti questi rischi e difficoltà che poi incontri nel deserto e poi in Libia. Grazie mille Giacomo Zandonini per averci raccontato cosa accade prima di quello che è la Libia e poi il Mediterraneo e gli eventuali sbarchi in Italia. Giacomo, buona giornata e buon lavoro. Grazie altrettanto e a presto. C'est la voix de Madou. Allora, intanto rispondo alle domande sui dati. Secondo il Viminale, meno 3,47% anno su anno dal 1 gennaio a oggi, mentre gli sbarchi sono dimezzati da luglio ad agosto. Ma ovviamente, insomma, più l'arco temporale si restringe, più è difficile dare una valutazione di carattere tendenziale. 349-238-6666. C'è chi dice: perché continuate a parlare di questi temi quando noi italiani non riusciamo ad arrivare a fine mese? I temi non sono alternativi, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Noi cerchiamo di raccontare quello che accade lontano dall'Italia, perché poi quello che accade lì, lontano, succede anche qua. Cioè, comunque i migranti arrivano. In più mi preme rafforzare il concetto che ho cercato di esprimere ieri. Cerchiamo di contattare le persone più competenti per fornirci il quadro più dettagliato possibile, per formarci un'opinione, perché è vero che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma anche un dovere cercare di avere un'opinione informata. Oggi ho letto di una dichiarazione di Jerry Calà, credo sulla Presidente della Camera, su Laura Boldrini, riportata da un quotidiano italiano. È come se a un certo punto a tutti i convocati Carlo Genta mi chiamasse dicendomi di esprimere la mia opinione su Neymar. Io e il calcio siamo due mondi così distanti che sinceramente non saprei cosa dire. Allora io trovo che sul dibattito sull'immigrazione ci sia un po' troppo di fumo e di aria fritta. Il tentativo di questo programma è di restituire i fatti, i numeri, per potersi formare un'opinione. In questo caso parlo, attenzione bene, da cittadino e non solamente da giornalista. Allora, uno dei compiti dei giornalisti è fare inchieste. Avete sentito da Giacomo Zandonini che c'è una sempre crescente presenza non solo italiana ma europea in Niger, perché ve l'ho detto, il paese è una chiave di volta non solo per l'immigrazione, pensate anche agli interessi economici francesi. Abbiamo raggiunto Ludovica Iona, che ha coordinato un'interessante ricerca fatta con un centro di ricerca giornalistica europeo, si chiama Diverted Fund. Sentite cosa dice. Sì, allora Diverted Aid, che significa fondi dirottati, è un progetto di giornalismo investigativo che è stato finanziato dal Centro Europeo di Giornalismo, che è stato pubblicato su 4 testate europee in Italia sulla Stampa. E l'obiettivo nostro era fare luce sul fatto che una parte crescente di fondi europei per lo sviluppo vengono in realtà utilizzati per bloccare i migranti in territorio africano, cioè quindi i soldi dello sviluppo arrivano in Africa, ma invece di andare a finanziare scuole, ospedali e progetti di sviluppo, vanno a finanziare spese militari, quindi formazione di polizie, esercito, equipaggiamento appunto dell'esercito, centri di transito per migranti di ritorno e attrezzature biometriche, cioè per raccogliere dei dati che, come per esempio le impronte digitali, che poi possono servire ai paesi europei per identificare i paesi di origine di migranti. Sì. In percentuale quanti di questi fondi vengono destinati a una funzione per i quali non sono stati sottoscritti? Allora, abbiamo visto che il Trust Fund, che è costituito ad oggi di 2,8 miliardi di euro, il 95% vengono da soldi, fondi per lo sviluppo. All'interno del Trust Fund abbiamo visto che circa il 40% dei soldi dei progetti approvati nel 2016 vanno a progetti di controllo delle migrazioni, quindi per il momento 40%. E questa era la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, in cui abbiamo cercato di raccontarvi quello che accade in Niger, che se volete è una tappa più nascosta e meno raccontata del lungo viaggio che decine di migliaia di africani tentano verso l'Europa, la cui ultima tappa è quella più visibile, quando avvengono quindi i salvataggi nel Mediterraneo, anche con le possibili storture denunciate appunto da questa inchiesta coordinata dalla collega Ludovica Iona. Adesso sulla nostra pagina Facebook posteremo un link se volete dare un'occhiata, mi sembra un'inchiesta piuttosto interessante. Allora, nella dinamica migratoria molto spesso accade che alcune rotte si chiudono, altre poi se ne aprono. Quella libica in verità è quella che quella principe che è rimasta aperta per anni, fatto salvo quando a un certo punto Gheddafi decise fondamentalmente di chiuderla. La rotta del Mediterraneo tra il 2015 e il 2016 ha vissuto un momento drammatico. In particolare c'è un'isola, che è l'isola di Lesbo, che è molto vicina alla costa turca, che in un anno circa vide arrivare 600.000 persone. Ci racconta questa storia Daniele Biella, giornalista freelance e fresco quasi di pubblicazione di un libro tutto dedicato a quell'esperienza, si chiama Lesbo, l'isola dei giusti. Daniele, buongiorno, benvenuto a Nessun luogo lontano. Buon pomeriggio a voi. Allora, si dice, io stesso dicevo che praticamente la rotta dell'Egeo è quasi chiusa. In realtà tu sei stato anche di recente a Lesbo, forse anche a Kos e Samos. Samos, pensate, è a 800 metri dalla costa turca, e a dispetto del fatto che i media ormai non raccontano più quella rotta, dopo gli accordi della Turchia e dell'Europa con cui fondamentalmente hanno bloccato il flusso migratorio, in realtà qualcosa accade. Daniele Biella. Sì, accade che gli arrivi non sono mai azzerati, o meglio, dopo il marzo-aprile 2016, dopo l'accordo tra Unione Europea e Turchia, c'è stato un momento di calma, piatta, ma subito dopo è ripreso. Tant'è che, per farvi un esempio, che gli arrivi in questo periodo dell'anno sono circa sulle 100-150 al giorno per le isole di Lesbo, Chios e Samos. Ieri, 9 agosto, il numero è proprio quello, 160 persone, persone di tutte le nazionalità e tutte le età. L'accordo UE Turchia, seppur diminuendo molto il flusso, non l'ha azzerato, perché comunque i trafficanti il loro gioco sporco continuano a farlo e le maglie per passare le trovano, e le persone hanno sempre necessità. È chiaro che parliamo di persone con varie tipologie e necessità, e è chiaro che la diminuzione del flusso del 2015-2016 si è in parte riversata sulla Libia, questo sì. Dall'altra parte è in vigore quell'accordo appunto dell'Unione Europea-Turchia che fa sì che sulle isole si sono create dei centri che si chiamano hotspot, che non hanno migliorato in realtà il tutto, perché quello che accade è che le persone rimangono mesi e anni in questi hotspot, e quindi la loro richiesta d'asilo, il loro proseguo del viaggio, il loro diritto o meno a avere l'asilo politico in realtà rimane sospeso nel tempo, con disagi loro e con disagi della popolazione stessa. Ecco, fra l'altro, Daniele, la Grecia non ha mai brillato nella gestione del fenomeno migratorio. Io ricordo già una crisi dell'isola di Samos, era il 2008-2009 quando mi ci recai la prima volta, e per anni ha avuto la maglia nera sulle concessioni del diritto di asilo per due motivi: primo, perché la struttura burocratica, l'apparato non riusciva a smaltire le domande, e secondo perché c'erano domande molto molto residuali, perché la Grecia, come l'Italia, è per molti molti migranti un transito, perché si punta soprattutto al nord dell'Europa, alla Germania, ai paesi scandinavi, eccetera eccetera eccetera. Siamo quasi pronti per l'informazione finanziaria. Facciamo così: informazione finanziaria, poi di nuovo Nessun luogo sarà lontano. Copiamo la musica, la moda, i jeans, usiamo gli stessi telefonini ormai in tutto il mondo. Non è arrivato il momento di scambiarsi anche le idee? Spunti di Vista è un programma di attualità che mostra soprattutto ciò che funziona nel mondo per creare un circolo virtuoso grazie proprio alla conoscenza reciproca. Le voci, le tendenze dai posti di lavoro, dalle università, dalle strade. Sono Irene Zerbini. Vi aspetto sabato dalle 10 alle 11 e domenica dalle 8 alle 9 su Radio 24. Spunti di Vista. Si importano idee. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Tappa nell'Egeo per raccontare rotte dell'immigrazione che si aprono e si chiudono, o fintamente si chiudono, perché come ci sta raccontando Daniele Biella, giornalista freelance, autore dell'Isola dei Giusti, che è un racconto di come Lesbo, quest'isola di fronte alla costa turca, reagì in un anno all'arrivo di 600.000 migranti. Ricorderete, poi fra l'altro eravamo in onda proprio con questo programma durante quell'estate, e in effetti il flusso di migranti era veramente massiccio. Daniele Biella, sulle isole molto spesso i volontari hanno supplito a quelle che erano carenze strutturali, no, dell'amministrazione, del guardiacoste greco, perché alla fine, come dire, la Grecia, già attanagliata dalla crisi economica, si è trovata a fronteggiare un numero davvero incredibile di arrivi. Daniele. Sì, fin da subito le persone hanno aperto le porte, hanno portato coperte, hanno offerto cibo. Non c'è stato un attimo per pensarci. A me ha fatto impressione nel raccogliere le storie per il libro, che alla fine ne ho scelte 7. Tutti mi hanno detto, alla mia domanda, ma perché avete fatto tutto questo? Tutti mi hanno detto, c'era da fare assolutamente solo questo. Dall'altra parte c'erano persone come noi, più sfortunate, con diverso colore della pelle, con altri problemi, ma erano persone come noi. Per fare un viaggio del genere devi essere veramente all'ultima speranza. E poi la frase che mi ha lasciato molto, molto, come si può dire, mi ha fatto molta impressione, per esempio l'ha detta questa nonna 85enne, è quella che chiunque, se fosse stato sull'isola, avrebbe fatto la stessa cosa. Voi parlate magari, si riferiva a me, a chi io vivo in Lombardia, per esempio, vedete le persone che arrivano dopo, in un secondo passaggio, ma quando si vedono arrivare queste persone si cambia anche il ragionamento, si punta soprattutto a capire questa cosa, che il problema non sono queste persone, hanno loro problemi, e quindi dopo tutta l'accoglienza, tutta la gestione, bisogna parlarne, bisogna accusare l'Unione Europea, o meglio il Consiglio d'Europa, di quello che non sta facendo, ma mai far cadere le colpe su chi arriva e chi aiuta in questo caso, perché appunto i giusti sono loro, come altre persone che si sono messi all'opera, nonostante queste, le persone che hanno aiutato, come si può dire, non avessero i documenti in regola, però in quel momento prevale l'umanità. E quello è successo, quindi dopo sono arrivate le istituzioni e hanno stanno tamponando con i problemi che ci sono, che hai detto anche te prima, nel senso che sia la Grecia che l'Italia non hanno le condizioni, se vogliamo proprio parlare dal punto di vista sociale, per accogliere tutte le persone che arrivano, e queste persone vogliono andare altrove. E questo regolamento di Dublino, che invece ancora vige e l'Unione Europea non cambia, è fonte di tanti problemi di oggi. E ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato proprio ieri, fai bene a ricordarlo, che se volete il punto dirimente di tutta la questione, il regolamento Dublino 3 oramai impone al primo paese toccato dal migrante, lì deve chiedere asilo, con ovviamente la creazione di veri e propri imbuti sui paesi che sopportano il peso massiccio dell'immigrazione. Grazie mille. Daniele Biella, giornalista, freelance, autore di L'Isola di Giusti, Lesbo, Crocevia dell'Umanità, Edizioni Paoline. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro Daniele. Grazie a voi, arrivederci. (349) 238 6666. C'è un ascoltatore che dice: si sente lontano chilometri che lei e i suoi ospiti sono per gli sbarchi selvaggi e senza regole, e poi che se ne frega dei cittadini italiani. Io non sono per niente, gentile ascoltatore o ascoltatrice, io cerco di raccontare la realtà e cerco di farlo con l'onestà, con la più alta onestà possibile, cioè cerco di fermarmi ai fatti e esprimo molto raramente le opinioni. Quando le esprimo dico: attenzione, sono opinioni. Sbarchi selvaggi? No, assolutamente. Chi se ne frega i cittadini italiani? Assolutamente no, sono anch'io un cittadino italiano e ci tengo pure io. C'è poi chi sottolinea, forse un pochino più costruttivamente, che la Merkel, per esempio, quando accolse 1 milione di siriani, aveva scelto quali migranti accettare. E Silvano dice: sconsolato, perché noi dobbiamo prenderci proprio gli africani, facendo evidentemente riferimento a quel 1 milione di siriani, l'alta borghesia siriana, molto spesso che avevano studiato, erano ingegneri, erano appunto studenti, molto spesso con un ottimo inglese. E vabbè, lì è questione di politica estera molto pragmatica, forse è una domanda da rivolgere piuttosto al nostro governo invece che a me. 349-238-6666, continuate a mandare domande o commenti. Ripeto, l'unica cosa che non ammetto è il turpiloquio, per cui, cari ascoltatori, alcuni di voi stanno usando parole che non mi piacciono, non leggo i messaggi, ripuliteli se volete avere voce in questo programma. È il momento di gettare lo sguardo all'estero per andare a analizzare due modelli per capire se ci possono insegnare qualcosa. Il primo è il confine tra Messico e Stati Uniti. La polizia te sta extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quedo. y me quejo porque aquí es donde... Buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano a Cristina Mastandrea, fotogiornalista freelance che ha di recente lavorato proprio tra Tijuana e San Diego, confine tra Messico e Stati Uniti, che è un confine che, come dire, ha fatto fare scintille all'amministrazione statunitense e anche a quella messicana. Antonio Talia ha provato a ricostruire un po' quello che è accaduto, sentite. Secondo le statistiche recentemente elaborate dal Pew Research Center, nel 2016 negli Stati Uniti d'America erano presenti 11,3 milioni di migranti illegali, pari al 3,4% della popolazione totale. Si tratta di una riduzione sensibile rispetto al 2007, l'anno del picco con 12,2 milioni di migranti non autorizzati. Se fino a qualche anno fa la maggioranza di loro era di nazionalità messicana, oggi non è più così. Nel 2016 i messicani illegali erano 5,6 milioni, contro i 6,4 milioni del 2009. Ma la frontiera lunga 3.140 km tra Stati Uniti e Messico continua a essere di importanza capitale, perché con 350 milioni di passaggi legali ogni anno è il confine più trafficato del mondo e la maggior parte degli immigrati che riescono a superarlo illegalmente è comunque di origine centroamericana. Honduriani, salvadoriani, guatemaltechi, nicaraguensi. Sul versante statunitense, l'agenzia principale che si occupa di controllare la frontiera è la Border Patrol, una struttura federale che conta oltre 20.000 dipendenti, ma che nonostante un continuo aumento del budget, si trova nell'impossibilità fisica di controllare costantemente gli oltre 3.000 km di frontiera. Negli USA, a differenza di molte altre nazioni, inclusa l'Italia, vige lo Ius Soli, ossia, chi nasce negli Stati Uniti, anche da genitori immigrati illegalmente, è automaticamente cittadino americano. Nel gennaio 2017, con la firma di un ordine esecutivo, il presidente Donald Trump ha rivisto le politiche americane di accoglienza, limitando l'arrivo di rifugiati alla quota di 50.000 persone all'anno, sospendendo per 120 giorni il programma USRAP per l'ammissione di rifugiati, con la proposta di riprenderlo solo per singole nazioni e per minoranze religiose perseguitate. Il decreto presidenziale si è scontrato con numerose cause legali e numerosi tribunali, che hanno ipotizzato la violazione della Costituzione americana e di numerose leggi federali e trattati internazionali. In attesa delle sentenze definitive, una sentenza del Tribunale Distrettuale dello Stato di Washington ha sospeso a livello nazionale le principali disposizioni del decreto. Il Dipartimento di Stato e l'Homeland Security hanno smesso di applicare la norma e hanno ripristinato i visti revocati. E questa è la fotografia delle ultime politiche di Donald Trump, che hanno in qualche modo sconfessato quelle che erano state quelle del presidente, del precedente presidente Barack Obama. Cristina, allora, Cristina Mastandrea, fotogiornalista freelance che ha visitato quella frontiera così porosa e che gli Stati Uniti stanno tentando di chiudere e di blindare. Che fotografia ci restituisci, visto che quello fai soprattutto di professione, di quel confine? Cristina, benvenuta intanto. Buongiorno, grazie mille per avermi invitata. Partiamo dai numeri, no? Recentemente Donald Trump hanno approvato 1,6 miliardi di dollari per la costruzione di questo muro. In realtà questo muro, come dicevate giustamente, è un muro che già esiste ed è stato iniziata l'opera nel 94 dal presidente Clinton, poi successivamente continuata dal presidente George W. Bush. Questo muro in realtà, più di 3.000 chilometri è il confine tra Stati Uniti e Messico, circa più di 1.000 hanno già delle barriere di metallo alte anche più di 5 metri, non in tutto il territorio, che comunque già impediscono la circolazione di mezzi, di persone, e soprattutto sono molto controllate anche nelle zone urbane, dove ci sono controlli anche di droni e sofisticate tecnologie. Questa è un po' la situazione al confine. Naturalmente il presidente Trump sono stati approvati questi miliardi di dollari, ma in una situazione in cui in questo momento si registra il numero più basso di entrate irregolari dal Messico verso gli Stati Uniti. Questo emerge da diversi rapporti tra i quali anche quello di Amnesty International, Enfrentando Muros, e tra l'altro viene anche dichiarato nel marzo del 2017 da John Kelly, ex capo della sicurezza nazionale, sì, che appunto dice che tra la frontiera Stati Uniti e Messica il flusso di migranti si è ridotto del 40%. Sì, in mezzo questo a questa sì, è la fotografia, insomma i numeri sono calati, quindi esatto, l'azione di Trump è stata da questo punto di vista efficace. Tu hai incontrato Enrique Morones, che è fondatore dei Border Angels, che è fondamentalmente un ONG, lui è tra i fondatori, che da anni cosa fa? Si muove nella zona tampone che esiste fra i due stati, tra Messica e Stati Uniti, che è una zona totalmente desertica, anche molto lunga da attraversare, dove non c'è il muro ovviamente, e i trafficanti si fanno pagare soldi per permettere ai migranti di passare. Beh, molto spesso capita che però finisce l'acqua e i migranti muoiono di sete. Sentite la voce di Enrique Morones. In the 1980s, President Reagan had said to President Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Negli anni Ottanta, il presidente Reagan disse di Gorbachev: Gorbachev ha abbattuto questo muro, riferendosi al muro di Berlino. Ma nel 1994 gli Stati Uniti hanno iniziato a costruire un nuovo muro, una cosa pazzesca. Purtroppo il confine che separa gli Stati Uniti dal Messico ha un muro che percorre un terzo del confine, che complessivamente è lungo 3.000 chilometri. Quindi per 1.000 chilometri esiste già un muro, perché nel 1994 gli americani hanno iniziato a costruirlo. La conseguenza dell'innalzamento di questo muro non è stato avere uno o due morti al mese, come si pensava, ma uno o due morti ogni giorno. 11.000 persone sono morte dal 1994 a oggi. Noi Border Angels abbiamo cominciato a mettere taniche di acqua nel deserto, così che le persone non morissero. Abbiamo cominciato nel 1996 e abbiamo volontari che vanno nel deserto e lasciano l'acqua. Abbiamo cominciato nell'area di San Diego e ora copriamo tutto il confine. Ci sono anche altre organizzazioni oggi che fanno ciò che facciamo noi, ma noi Border Angels portiamo l'acqua non solo nella parte messicana del confine, ma anche in quella statunitense. E la maggior parte del nostro lavoro si concentra proprio nella parte statunitense. Svolgiamo numerose attività a Friendship Park, che è dove è iniziato il muro. L'evento più importante che organizziamo lì ogni anno si tiene il 30 aprile, che è il giorno dei bambini, e consiste nell'aprire la porta della speranza. Negli ultimi 5 anni siamo riusciti a convincere le guardie di frontiera ad aprire la porta tra USA e Messico in questo giorno, e capita che dei bambini vedano per la prima volta nella loro vita genitori o nonni. E questo è pazzesco! Per questo noi diciamo che l'amore non ha frontiere. E quando la gente vede una bambina abbracciare per la prima volta il suo papà, la gente si commuove. Allora, adesso facciamo una piccola pausa. L'informazione sul traffico e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo è Lontano. Stiamo andando ad analizzare il caso di scuola del confine tra Messico e Stati Uniti. Lo stiamo facendo con Cristina Mastandrea, fotogiornalista freelance che ha da poco visitato quel confine. Cristina, l'ultima domanda per te è: che tipo di immigrazione sta vivendo quel confine? Sono messicani, sono più centroamericani, quindi Ecuador, Colombia, eccetera, eccetera. Sei riuscita in qualche modo a capire com'è la percentuale del fenomeno migratorio? Allora, in questo momento il fenomeno migratorio è la migrazione prevalentemente di migranti che lasciano paesi come El Salvador, Honduras, Guatemala, quindi quello che la zona conosciuta come il triangolo nord di Centro America. A questo si sommano, in Messico, quindi a Tijuana, si sommano un numero di circa 60.000, poco più di 60.000 di deportati. Cioè queste sono persone che in realtà vivevano negli Stati Uniti e per qualche motivo sono stati deportati, proprio lasciati alla frontiera e deportati in Messico. Questo è un problema che vorrei sottolineare perché è molto importante, è una situazione abbastanza complessa, nel senso che

Allora, era la voce del professor Giuseppe Nesi, che insegna diritto internazionale a Trento e anche preside della facoltà di giurisprudenza, che ho tentato di solleticare maggiormente sulla replicabilità di quel modello che da alcune parti, anche da parte di alcuni ascoltatori, è stata invocata per risolvere la crisi migratoria Libia-Italia. Sentite. Ecco, questa cosa, ripeto, teoricamente sarebbe replicabile, ma il vero problema è che qualsiasi Stato rinunci a esercitare determinate prerogative, determinate attività che sono proprie dello Stato stesso, deve essere pronto a subire le eventuali denunce e quindi anche la eventuale responsabilità sul piano internazionale qualora lo Stato che viene delegato commetta dei reati oppure si comporti in maniera non conforme al diritto internazionale rispetto ai richiedenti asilo. Un esempio, se l'Italia, ecco, immagino che la sua domanda a questo miri, se l'Italia decidesse di chiedere alla Libia di valutare eventuali domande di asilo, di rifugio da parte di un individuo, intanto dovrebbe necessariamente assicurare nel momento in cui l'individuo è in quel paese un trattamento umano all'individuo stesso in primo luogo, e quindi sarebbe necessario avere dei centri di accoglienza che siano degni di questo nome, cosa che mi pare sia difficile al momento in quel paese. Inoltre è chiaro che la valutazione della domanda non può essere fatta in maniera del tutto distaccata rispetto al paese nel quale poi il rifugiato aspira ad andare, e quindi ci sarebbe comunque la necessità, come mi pare di ricordare accade anche in Australia, della presenza di autorità nazionali nel paese dove queste domande vengono esaminate. Quindi non sarebbe, ripeto, una cosa impossibile, ma bisognerebbe immaginare di seguire determinate modalità, di seguire determinate procedure che siano trasparenti anche da un punto di vista internazionale, e solo a queste condizioni si potrebbe immaginare che la valutazione della domanda possa avvenire secondo le procedure previste dal diritto internazionale. Allora, ho pochi minuti per darvi conto, perché vi abbiamo dedicato un grande spazio nelle scorse puntate in Nessun Luogo è Lontano, di quello che sta accadendo in Kenya dopo la proclamazione, quasi, perché deve venire tra poche ore, pochi giorni, la commissione nazionale è al lavoro. Vi sono stati almeno 4 morti a Nairobi per le proteste scaturite dal fatto che il leader Odinga dell'opposizione ha rifiutato di accettare le stime che sarebbero state fatte. Fondamentalmente Uhuru Kenyatta si sta avviando a essere nuovo presidente, riconfermato presidente del Kenya. Odinga ha denunciato dei brogli e un hackeraggio del sito della commissione elettorale che avrebbe appunto iniziato a proiettare i risultati. Allora, chiaramente, come capite, visto quello che era accaduto nel 2007 con oltre 1100 morti, è una situazione da tenere sotto controllo. La polizia è intervenuta, vedremo, ve ne darò conto nelle prossime puntate in Nessun Luogo è Lontano, titoli di coda. Con i quali ringrazio Antonio Talia e Elisa Pancaldi, che hanno confezionato con me questo programma, Gianmarco Ferronato, che le ha dato musica e ritmo, voi per essere stati all'ascolto e aver commentato. L'appuntamento è per questa sera ore 20, la replica poi domattina alle 6, poi in diretta domani alle 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto intanto da Gianpaolo Musumeci.